Mix 24 di Giovanni Minoli. Si chiude così con la sinfonia dal nuovo mondo di Anton Dvorak, la convention fondativa di Energie per l'Italia, e il movimento fondato da Stefano Parisi entra ufficialmente nell'agone politico. Siamo una squadra super, ma come ogni squadra che si rispetti abbiamo anche un grande capitano. Lui è Stefano Parisi! I politici devono essere persone che devono essere forti, devono avere un mestiere, devono sapere cosa fare, devono avere la capacità di prendere in mano una situazione complessa, devono avere l'entusiasmo, l'emozione e non correre dietro a questo schifo di populismo. Parisi fissa una data, l'8 ottobre, per chiamare quel popolo a un voto nazionale, una consultazione aperta per scegliere un leader, ma guai a chiamarle primarie. Buongiorno, bentornati a Mix24, buongiorno Stefano Parisi, fondatore, l'abbiamo sentito, del movimento Energie per l'Italia. Allora l'8 ottobre cosa capita? Non sono primarie, come si chiamano? Ah, no, perché le primarie sono per indicare un candidato primo ministro. E invece voi cosa indicherete? Beh, un voto popolare per mettere insieme varie parti di questo mondo liberale popolare che si deve riconoscere un leader. Quindi comunque, più leader in concorrenza tra di loro, un soggetto politico. Senta, comunque abbiamo sentito sabato a Roma che ha provato a accendere i cuori, crede di esserci riuscito? Sì, beh, c'era un entusiasmo straordinario. Poi sa, 3.000 persone venute da tutta Italia, proprio popolo. Cioè una bella sorpresa. Ah, bellissimo, non credevamo tanta gente. Credo che in quella sala, dice il direttore dell'Ergife, che lei sa, quella sala è stata una sala famosa, dice che da 40 anni non c'era tanta gente. Accidente. Quindi, ma allora cos'è? La nascita di un nuovo partito personale? Lei è il leader? Come la vediamo? No, ma i partiti personali non funzionano più. I movimenti politici devono essere in grado di rigenerarsi. Questo poi è successo poi a Forza Italia, l'incapacità di rigenerarsi e sicca poi quella radice, quell'entusiasmo. Invece ci deve essere un continuo dibattito politico. Beh, lei dice la che ma lei dice che Forza Italia non è in grado di rigenerarsi, però i sondaggi danno a Berlusconi tanti voti come alla Lega, più o meno. Ah, ma certo, quelli sono i voti di Silvio Berlusconi. Ah, non è Forza Italia. Non è Forza Italia. Forza Italia, se lei gira l'Italia, è molto molto ridotta, poco, perché sa. Sono i voti di Berlusconi. Sì. Credo che i partiti, invece, i movimenti politici debbano avere una forza che è radicata. Che è radicata. Ecco, lei punta, a proposito del radicamento, lei punta a raccogliere i moderati delusi, e sono milioni, però non votano o comunque non si capisce. Perché dovrebbero scegliere il suo movimento? Ma perché sono quelli che votavano anche centrodestra, che sono stati delusi da Renzi, che si sono rifugiati nel voto senza speranza, indignato al 5 Stelle, o che addirittura rimangono a casa il giorno delle elezioni. Quindi lei pensa di disaggregare per riaggregare, insomma, in qualche modo? Sì. Ma sa, per un motivo preciso, non è certo politicismo, è solo perché penso che l'Italia abbia bisogno di una forza politica in grado di governare la gravissima crisi in cui il paese c'è. Guardi, qua il rischio che ci troviamo a ottobre, se si votasse veramente presto come vorrebbe Renzi, ci potremmo trovare a ottobre a dover affrontare una manovra da 40 miliardi di euro gestita da Grillo e Di Maio. Ecco, io credo che questo rischio sia molto elevato, e quindi dobbiamo ridare la qualità alla politica, ridare dignità alla politica. Senta, e credo che questo sia un grande lavoro da fare, insomma. Senta, l'Italia liberale, però, a cui lei fa riferimento, in realtà non c'è mai stata. I liberali sono sempre stati una minoranza. Allora, minoranza feconda, questo vuole? No, ma quello è un liberalismo elitario, quello che guardava soprattutto alle regole del mercato, e invece noi pensiamo, e all'elite, liberava molto l'elite. Invece noi pensiamo a una nuova libertà. Dobbiamo liberare il paese dalla burocrazia, dalle tasse, dall'invidia, da questo gioco a somma zero per cui... Dall'invidia sarà molto dura, Senta, guardi poi il paese secondo me è molto meglio di quanto la politica... No, ma questo sono assolutamente convinto. Senta, con Berlusconi vi siete divisi perché Berlusconi non ha gradito il suo out alla Lega, un po' questo? Ma sì, quello fu, diciamo così... È stato il casus belli quello? Sì, sì, poi sai, il problema è questo. Io credo che il problema di fondo sia quello della voglia di rigenerare un nuovo soggetto politico. Certo. Io un po' ci ho provato. Quando ho visto che avevo solo ostilità, ho preferito lasciare perdere. Senta, comunque pensa che ci sarà un accordo fra Berlusconi, che appunto, come dicevamo prima, comunque nei sondaggi ha voti come la Lega, un Nazareno bis per battere 5 Stelle? Ma guardi, veramente non lo so, questo è molto... Ma lei è favorevole a un eventuale Nazareno bis o no? Ma io penso che le politiche economiche fatte dalla sinistra in questi anni, da Renzi, sì, in questi anni sono l'opposto di quello che noi stiamo proponendo, no, l'opposto. E quindi no. E quindi no. Mi sembra molto complicato, a meno che non cambino idea. Certo, o che cosa succeda dentro il PD, ancora nessuno lo sa, questo è vero. Lei ha detto una cosa che mi ha colpito molto nel suo discorso, cioè che i politici devono avere un mestiere prima di fare politica. Ecco, senta cosa mi diceva Fanfani esattamente 30 anni fa a proposito di questo stesso tema. Senta, ma in politica è indispensabile secondo lei avere un secondo lavoro per essere liberi, cioè avere un primo lavoro anzi? Io ritengo, la mia esperienza dice, che arrivare in politica dopo avere una propria posizione professionale è un grande vantaggio, è una garanzia di libertà. Ecco, ma chi non ce l'ha allora è meglio che non faccia politica. Eh? Io consiglio a tutti, specie ai giovani che ogni tanto vengono e dicono, sai, io vorrei fare politica, prima studio o prima impara un lavoro e conservati, creati e conservati una tua personalità e possibilità di vivere, in modo da non aver bisogno delle briciole della politica. Insomma, Parisi come Fanfani. Beh, quella era una politica di qualità, c'è poco da dire. Magari avesse un Fanfani. Senta, il suo programma però sembra un po' quello di Berlusconi del 94, taglio delle tasse, la spesa pubblica, liberalizzazione. Renzi e Grillo vanno in un'altra direzione col reddito di cittadinanza come parola chiave. Sono in ritardo loro o lo è lei? In ritardo loro, assolutamente. Io sono convinto che le idee di fondo del 94 erano giuste. Poi va aggiornato a un'Italia che è cambiata in modo profondo e soprattutto va realizzato. Ma guardi, questo secondo me è un problema soltanto di volontà politica. Se si continua a pensare che l'unico obiettivo è quello di redistribuire, quindi tassare di più i ricchi per dare male ai poveri, non serve. Bisogna far crescere l'economia, credere nelle persone che vogliono generare ricchezza e essere selettivi nell'aiutare le persone che non ce la fanno, ma per fare in modo che queste tornino a essere una condizione civile, tornino a potercela fare. Senta, invece questa logica del 5 Stelle e della sinistra, che sono identiche, è quello di tagliare tutti un po' più poveri, tutti con un po' una burocrazia poi che assorbe le risorse e non riesce neanche a farci. Senta Parisi, un'ultimissima cosa, lei si augura che la Corte di Giustizia rimetta Berlusconi in gioco? Ma questo sì. Perché? Io lo dico per lui, insomma. Ma per lui, perché penso che sia giusto. E per lei? Un confronto libero. Ma per me veramente, noi stiamo facendo un altro percorso, stiamo costruendo potreste incontrarvi a un certo punto. Sì, di nuovo. Noi stiamo costruendo un soggetto nuovo, molto nuovo, e sarà nuovo e protagonista della politica italiana nei prossimi anni. Ok, auguri. 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, l'SMS. Allora Pietrangelo, che cosa ci fai sentire oggi? Arriva. Da quando sei andata via, da quando non ci sei più, da quando la pasta scotta non la mangio più, ai Maria chi mi manca sei tu. Allora c'era in metropolitana oggi un caimano distratto che imitava il gatto e faceva babau perché studiava le lingue. Disapprovava però il progetto della metropolitana. Poi c'era, certo, il vecchio fakir, un saggio emiro e tanti insonni in cerca del sole al tramonto. Insomma, ha chiamato una bella sequoia, ha chiesto questo brano per il vecchio platano con un messaggio: che bello poter ingiallire insieme per sempre a Bahia. Mi dice che oggi qualcosa è cambiato in me. Ai Maria, non sei più. Allora Mario, anche tu, Rino Gaetano? Beh, devo rispondere. Abbassare. Non sarebbe più. Abbassare con le canzoni senza fatti e soluzioni. La castità. Non sarebbe più. La verginità. Non sarebbe più. La sposa in bianco, il maschio vabbè ragazzi, allora aveva capito tutto. Sì, bravo, vabbè, bravissimo. Ho capito tutto, vabbè. Siamo ancora là, che non li leggiamo più. In teoria dovremmo avere questa settimana comunque un'idea di cosa farà il governo con l'aggiustamento dei conti pubblici, quindi la manovra bis. Aspettiamo i documenti, perché tanto è inutile commentare cose che non ci sono, come sempre. E non dobbiamo aspettare molto per avere i dati invece su occupazione e disoccupazione, escono oggi dall'Istat alle 10. I numeri sulle immatricolazioni delle auto, che sono importanti perché un pezzo della produzione industriale italiana è attaccata all'auto, come sappiamo tutti, ne sanno qualcosa in Basilicata, FCA. E domani verranno pubblicati i prezzi per delle abitazioni, anche questi sono molto interessanti. Perché? Perché l'80% degli italiani ha un'abitazione e in questi anni purtroppo il mercato si è appruato, come suol dirsi. Mercoledì, report dell'Istat sull'andamento dell'economia italiana. Perché vi cito tutti queste cose? Perché dobbiamo andare a vedere come va. E andrà sicuramente meglio di quando eravamo in recessione, non ci voleva molto in realtà. Ma peggio di quanto immaginava fosse forte, diciamo, la ripresa, cioè una ripresa degna del nome. E i conti pubblici per il futuro, la realtà è questa, lo vediamo nelle torsioni dell'esecutivo, sono già belli che impegnati, ci sono 40 miliardi, oltre 40 miliardi. Quello che diceva anche Parisi prima. Sì. Esatto. E soprattutto c'è una cosa, il paese, tenete d'occhio quello che succederà nelle amministrative e così via, è sempre più diviso, sempre più diverso. Salamini! Ed ecco a voi Giovanni Minoli! Ed ecco a voi Mario Secchi, ed ecco a voi sfolgorante nel racconto sentimentale delle canzoni scelte per noi, Gloria Guerrera. E io mi alleno a diventare autore Rai, Giovanni, perché... Perché più che fare il bravo presentatore voglio fare lo scrivitore di testi. Michele Serra, che è uno dei sommi scrittori d'Italia, racconta oggi su Repubblica anni e anni di fatica creativa intorno al palco dell'Ariston per Sanremo, intorno ai tavoli di Che Tempo Che Fa, intorno alle psicadeliche sedute degli show di Celentano, per non dire degli show del Beniamino, di tutte le feste dell'Unità, ovvero Gianni Morandi. Fatti mandare dalla mamma. Ed era tutta una fatica per scrivere, ed ecco a voi Luciana Littizzetto. E però Giovanni, tu che conosci quel mondo, e però caro Mario, tu che conosci le dinamiche del totalitarismo, e però il controllo di una signora della Rai TV che gli stava sul collo per controllare e sillabare, ed ecco a voi Luciana Littizzetto. Sì, perché Michele Serra racconta la sua resistenza. Partigiano qual è del libero pensiero, racconta le inaudite sofferenze cui si è sottoposto per poter scrivere i testi del sabato sera Rai, e dalle pagine di Repubblica accusa, e qui i toni sono struggenti, Beppe Grillo, perché c'era il festival di Sanremo. Grazie. C'era questo benedetto festival di Sanremo e uno squinternato minaccia in diretta di volersi ammazzare. Grillo, messo lì fuori, sgama il tutto e dice: ma no, è una fesseria inventata dagli autori per fare ascolti. E Serra oggi accusa e dice: dovevamo querelare Grillo perché il suicida era un vero suicida. Cioè, ma è morto? No, è appunto domanda che io mi domando a voi che ne sapete di più, che avete le scuole alte. Sì. Ontologicamente, il suicida è tale se si suicida, perché non suicidandosi il suicida che suicidio fa? È un suicida in potenza, dunque in atto non ontologicamente compiuto, giusto? Però detta così la vedo difficile che mi prendano a fare l'autore Rai. No? E comunque Serra sferra da Repubblica un potente attacco a chi? a chi, domanda che ci domandiamo, a chi? A Michele Anzaldi, il deputato del PD, della seconda volta, ecco. Che Serra si scatena contro il castigamatti della RAI, sì, cioè quello detto. Che dice le cose, sì, quello che lui dice c'ha le cose. Contro Anzaldi, perché già sabato Anzaldi aveva osato sbertucciare Fabio Fazio, quello intoccabile, intoccabile. E Serra, dalla sua maca di Repubblica, aveva definito il politico, pur sempre membro della commissione di vigilanza RAI, il nuovo Gasparri. Ma l'obiezione di Michele quale fu? Se io sono il nuovo Gasparri, tu sei comunque un vecchio autore di Fabio Fazio. Apriti cielo, perché oggi lui lì ha smentito il conflitto di interessi, perché i valori della resistenza, quelli della democrazia, i sacri principi di legalità e varietà sono presenti ontologicamente sulla prima pagina della Repubblica, per cui si fa testo su tutto. Ora scusate il conflitto di interessi mio, io farei così, chiedo alla regia, Sandro, per favore, ritaglia questo salamino così che io possa sottoporlo al direttore generale vero dell'azienda RAI, che non è Antonio Campo che sta nell'orto, bensì Beppe Caschetto, agente delle Star, forse compassionevole al punto di prendersi anche le stelle filanti. E tali noi siamo, ci perché prende, comunque questo prende, è... Abbiamo svoltato. Caschetti Uber Alles. Bolla Mario. Vai con Caschetto pure, va. Vai con la bella. Vai, Ray Genesis. Allora Giovanni, Trump in un'intervista pubblicata appunto sul Financial Times, come abbiamo sentito anche nel radio giornale, dice che appunto la Cina deve intervenire per fermare la Corea del Nord, altrimenti gli Stati Uniti interverranno da soli. Boom, apriti cielo. No, Trump questo non lo può fare, ovviamente no, è l'intervento unilaterale. E d'altronde, che cosa volete? Kim Jong-un in effetti sta solo svolgendo 2 o 3 innocui test missilistici da pochi giorni. Ora, per le anime belle, e cioè quelli che si scoprono pacifisti a corrente alternata, io vorrei sottolineare che nel 2016 la Corea del Nord ha svolto i seguenti test missilistici: il 7 febbraio, il 3 marzo, il 10 marzo, il 16 marzo, il 18 marzo, il 21 marzo, il 24 marzo, il 29 marzo, il 1 aprile, il 9 aprile, il 15 aprile, il 23 aprile, il 28 aprile, il 31 maggio, il 22 giugno, il 9 luglio, il 19 luglio, il 3 agosto, il 24 agosto, il 5 settembre, il 15 ottobre e il 20 ottobre. Sono andati tutti male, Tutti in mare e tutti sempre più vicini al Giappone. Naturalmente mancano quelli del 2017 che stanno invece... Purtroppo sono sempre più pericolosi. Ora, tra poco... alle anime belle ogni tanto bisogna ricordarlo, che esistono i cattivi. Noi tra poco raccontiamo la storia di Robert Baer, l'agente della CIA, uno dei protagonisti delle zone calde del Medio Oriente, ma intanto oggi che cosa ha scelto Gloria Guerrera per noi? Oggi una canzone per chi fatica ogni giorno per difendere un sorriso per l'inverno è un paradiso da abitare. Ivano Fossati, La costruzione di un amore. Costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia. Amore, mi piace guardarla salire come un grattacielo di 100 piani o come un girasole, ed io ci metto l'esperienza come su un albero di Natale, come un regalo ad una sposa, un qualcosa che sta lì e che non fa male, e ad ogni piano c'è un sorriso. Passare.